Giorni di afflizione, dice il futuro premier Silvio Berlusconi, non tanto per le dimissioni da presidente del Milan, quanto per la formazione della squadra di governo. Il cavaliere sale al Quirinale dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, un primo colloquio sul futuro governo, prima delle consultazioni ufficiali, dopo l'insediamento delle Camere. Un'ora di faccia a faccia per uno scambio di vedute in un clima disteso e cordiale. Nessuna possibilità che la Lega, garantisce Berlusconi, possa influire sull'azione di governo, anche perché non l'ha mai fatto in passato. Il cavaliere sottolinea poi che il Carroccio ha l'8% contro il 38% del Popolo della Libertà, ma resta il nodo sul governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Rinviato l'incontro in cui doveva essere definita la posizione di Formigoni, savrà un incarico di governo o se, come sembra nelle intenzioni di Berlusconi, resterà alla guida della regione. Elisabetta Fiorito, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.